Dunque, corre voce che 2 settimane fa mi sia sfuggita in questa sede una gaffe clamorosa. E vi ho parlato in tono scandalizzato dell'esistenza in Milano di un museo degli strumenti di tortura, ipotizzando che le sue fortune fossero legate a quel tanto di sadico che avvigna nell'animo dei migliori di noi, per non dire dei peggiori, e non sapevo che contro quell'istituto si stavano muovendo le forze della reazione. Mi era completamente sfuggito il fatto che il comune di Milano, nelle persone del vice sindaco Decorato e dell'assessore alla cultura Carrubba, avesse e abbia tutte le intenzioni di sfrattarlo dai locali della posterla di Sant'Ambrogio in cui è alloggiato, auspicando la chiusura definitiva di una struttura considerata incompatibile con la linea culturale del comune stesso. Ignoravo altresì che quella raccolta fosse stata voluta anni fa da democratici di tutto rispetto e di alto sentire, come padre Davide Turoldo, per citarne uno, al fine di denunciare le male pratiche altrui, e non sapevo che a tutt'oggi molti continuano a servirsene in quel senso, come fa quella mia amica insegnante dalle impeccabili credenziali ideologiche che suole condurre in visita alle scolaresche. E anche sui particolari, sono stato impreciso. Ho scoperto che la riproduzione della gabbia dei condannati, che fino a qualche tempo fa era esposta all'esterno della posterla, il che mi dava, se ricordate, qualche fastidio, adesso non c'è più, è stata rimossa, come mi ha informato un'ascoltatrice gentile, non senza un pizzico di malizia, perché dava altrettanto fastidio l'abate di Sant'Ambrogio. Uno che evidentemente, quando qualcosa gli dà fastidio, diversamente da me, non ha problemi a farsela togliere di torno. Insomma, mi sono trovato in un modo o nell'altro dalla stessa parte di personaggi con cui di solito né io né gli ascoltatori amiamo fraternizzare. E se fosse solo questa l'accusa da cui devo difendermi, beh, me la caverei ancora con poco. Nulla impedisce, in fondo, che ogni tanto il vice sindaco Decorato, l'assessore Carrubba e naturalmente l'abate di Sant'Ambrogio ne azzecchino una, ogni tanto. E comunque io quel museo non avevo proposto di chiuderlo con un atto d'autorità in nome di una linea culturale che degli amministratori, quali sono in sostanza assessori e vice sindaci, non sono qualificati ad esprimere. Io avevo semplicemente consigliato di non andarci, che mi sembra tutt'altro discorso, tanto è vero che 2 su 3 degli ascoltatori che hanno protestato hanno cominciato la loro protesta dicendo che loro di visitare quel posto non se lo sognavano neanche, ma tuttavia, eccetera. Il problema nasce quando si comincia a tirare in campo, come dire, la necessità di informarsi, no? Quando si dice che la tortura è una realtà altamente spiacevole, che è vero naturalmente, che è ancora in vigore in varie modalità in più paesi di quanti ci piaccia sapere, il che è altrettanto vero, e si sostiene che tutti, per poterla combattere a ragion veduta, devono potersi documentare con quanto più zelo possibile sulle sue forme presenti e passate, e magari frequentando un museo come quello di cui sopra. In fondo, si dice, per capire quanto siano orribili certe pratiche, non basta sentirne parlare così in astratto. Si fa presto a dire tortura o pena di morte, si fa ancora prima, dico io, a dire terzo grado o condanna capitale, ma solo di fronte a una ghigliottina in perfetto assetto, a una vergine di Norimberga pronta per l'uso, o ai tanti altri strumenti di morte e dolore prodotti dall'ingegno umano, ci si rende conto di cosa completamente quei termini comportino. Beh, è una logica suggestiva, ma a me sembra un pochino pericolosa, se devo essere sincero. Nessuno in fondo afferma che per combattere la pornografia bisogna visionare quante più immagini pornografiche si riesce a mettere assieme e che la visita in rete ai siti per pedofili possa avere una funzione educativa, nel senso di suscitare la giusta esecrazione di chi la compie. E non è necessario naturalmente assistere a un'esecuzione capitale, che in molte parti del mondo, compreso gli Stati Uniti, sono pubbliche, almeno parzialmente, per rendersi conto di cosa quell'operazione significhi in termini morali. Il fatto che anche la necessità di documentazione incontra fatalmente qualche limite, e uno di questi limiti, forse l'unico che non possa essere mai superato, è quello della dignità degli individui coinvolti, di tutti gli individui coinvolti, anche di quelli che molto dignità non meritano. Le macchine di tortura e di morte, siano esposte o non esposte in un museo, non distruggono soltanto i corpi delle vittime, non sono state fatte soltanto per quello, le privano della loro dignità di esseri umani, di quelli che, se ricordate, dovrebbero essere sempre considerati come fine e mai come mezzo. Ed è impossibile partecipare, sia pure nella forma più mediata che si possa immaginare, a un'operazione del genere senza rimetterci la propria personale dignità. Io, proprio perché mi sento civilmente impegnato contro quelle pratiche, anche se non sempre faccio tutto quel che dovrei per concretizzare l'impegno, io quegli oggetti non voglio neanche vederli. E sono grato all'abate di Sant'Ambrogio, quali siano state le sue motivazioni, se il suo intervento mi ha ridato la possibilità di percorrere via Carducci. Che decorato e carubo agiscono in base a una logica illiberale e censoria mi sembra assolutamente ovvio e pacifico, e lo sapevamo già. Loro hanno la loro logica, noi per fortuna la nostra. Il Museo degli Strumenti di Tortura, se volete andarci, andateci pure, ma vi avverto, sappiate che è a vostro rischio e pericolo.